to do them before I die. Radio Onda Rossa, noi siamo sempre Samantha e Federica. Oggi è sempre martedì e quindi state ascoltando Quando eravamo pelose, ovvero Storie di donne senza peli sulla lingua. E oggi è sempre il giorno gestito dal martedì femminista e lesbico autogestito, giusto? Che è gestito e autogestito. Volevo dire, i nostri recapiti sono 06 49 17 50 oppure mfla@ondarossa.info. E vi raccontavamo la storia di Franca Rame, che il 24 giugno 1954 corona il suo sogno d'amore con Dario Fo e lo sposa a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. Ci siamo sposati per giunta in chiesa, a Sant'Ambrogio, con tanto di canti gregoriani e cerimonia solenne, commovente e toccante. Prima di sposarmi aveva anche lasciato un paio di volte. Una volta sembrava per sempre. Era diventata celebre, la chiamavano la Hayward italiana. Antonioni la voleva in Cronaca dei poveri amanti. L'avevano scritturata come subrettone in un varietà pieno di piume. E lei mi ha lasciato. E io ho pianto. E ho dovuto aspettare che ci ritrovassimo di nuovo insieme nel dito nell'occhio per riconquistarla. Naturalmente queste erano parole di Dario Fo. Ebbene sì, che unendo il suo talento con quella di Franca Rame rende il lavoro della compagnia completamente autosufficiente. Sì, si servono infatti di stesure provvisorie per escogitare e trovare la loro chiave teatrale, una chiave che vuole trovare nell'uso del palcoscenico il luogo interpretativo di una determinata situazione. Ebbene sì, la storia di Franca Rame e il talento di Dario Fo e comunque entrambi le due menti organizzano veramente tutto, come giustamente Franca Rame era già abituata da tempo, quindi fanno i costumi, le scenografie, studiano le situazioni di tipo e debuttano di solito in una piccola città. Sì, un po' come fanno oggi alcuni musicisti che iniziano le loro tournée in piccoli centri, in piccoli teatri per mettere un po' alla prova la loro scaletta e limare un po' il loro spettacolo, e così certo, facevano loro. Nessun miglior critico quale il pubblico. Sì, e quando avevano raggiunto più o meno la chiave che cercavano, la situazione che stavano inseguendo, erano pronti a debuttare in città più grandi e in teatri più importanti. E a garantire uno spettacolo comunque arrivato ad una certa stabilità e che era in grado di potersi presentare ad uno spazio teatrale. Sì, tra l'altro i Fo, brutto chiamarli Fo, i Rame, sì. Insomma, Dario e Franca hanno recitato in qualsiasi tipo di spazio teatrale senza farsi mai nessun tipo di problema. Eh sì, naturalmente, in circuiti convenzionali e non, in fabbriche, in piazze, in strade, addirittura arrivarono a conquistare la televisione di Stato, ma naturalmente per pochissimo tempo. Eh sì. Nel 74 la loro base divenne per moltissimi anni la Palazzina Liberty di Milano e Nel 55, comunque, dalla loro unione professionale e di vita, nasce il loro figlio, Jacopo. Nel 1962 Franca Rame e Dario Fo saranno al centro di una serie di problematiche nate in seguito ad uno sketch che hanno avuto il coraggio di interpretare per quei tempi a Canzonissima, lo spettacolo degli spettacoli che andavano il sabato sera in primissima serata. E loro, per la prima volta, parlano di temi forti come morti bianche, mafia e tematiche legate all'attualità in un programma televisivo di intrattenimento. Quale scandalo! Scoppia il naturalmente, mondo. Naturalmente, ma per non cedere ai tagli della censura, la coppia si tira fuori. Naturalmente rinuncia alla televisione, sì, ma fa anche bene. Ma naturalmente la televisione pubblica la mette al bando per il resto della loro vita. Ma sì, ma ormai siamo vicini al 68. Sì. E quindi loro continuano naturalmente a fare i loro spettacoli, a fare le loro inchieste. E per Franca sono anche gli anni del femminismo abbracciato a tutto tondo, comprese che la politica influenza ogni aspetto dell'esistenza, persino il lavoro di cucina. Sì, dirà lei, le dinamiche del potere determinano chi farà i piatti. Quanto mai vero? Naturalmente. L'Italia in quegli anni conosce anche una lunga serie di arresti politici, maltrattamenti, torture e trasferimenti continui tra istituzioni, censure, mancanza di cure mediche. Insomma, il momento era abbastanza rivoluzionario e la povertà e le disuguaglianze si toccavano. Sì, tutto questo si univa all'inefficienza del sistema giudiziario. Dove sembra i cittadini... quasi un ritratto contemporaneo. Sì, l'Italia non cambia mai. Sì, è insomma un sistema dove i cittadini che sospetti potevano essere imprigionati per anni prima di essere condotti a giudizio, un po' come ai tempi della caccia alle streghe, no? Bastava che qualcuno dicesse: ah, ho visto lui che faceva questo, ho visto lei con dei volantini, e magari passava 5, 6, 10 anni in galera senza aver fatto assolutamente nulla. È un caso tipico, è stato quello trattato in morte accidentale di un anarchico. Uno spettacolo che racconta, viene definito il suicidio di Pinelli, sì, al commissariato di pubblica sicurezza di Milano e della successiva settennale incarcerazione di Valpreda. Già. E in un'intervista Franca Rame ricorda il viso della madre dell'anarchico, viso che di tanto in tanto poteva scorgere dal palcoscenico, perché la donna si recava ad ogni replica dello spettacolo dedicato al figlio, e per quella donna andare allo spettacolo era diventato ormai un rito catartico. Ah già, col tempo Franca comincia ad interessarsi anche dei diritti dei prigionieri politici, perché pensava, riteneva che almeno sul piano umanitario magari si potesse fare qualcosa si potesse migliorare, insomma. Eh sì, fondarono addirittura un'associazione chiamata Soccorso Rosso, che iniziò con 8 casi di prigionia negli anni 70 e arrivò a seguirne più di 800. Sì, una struttura, tra le altre cose, pensiamo, creata negli anni di piombo per fornire sostanzialmente assistenza legale, monitoraggio delle condizioni carcerarie dei militanti della sinistra, soprattutto della sinistra extraparlamentare naturalmente. E soprattutto delle condizioni nelle carceri, visto che erano delle condizioni completamente disumane. Sì, e poi... poco dopo, proprio perché il sospetto di terrorismo divenne una delle principali cause degli arresti politici e la situazione si fece sempre più calda, sì, Franca spinse la maggior parte degli attivisti a ritirarsi dall'organizzazione e, pur non cessando mai di aiutare le famiglie degli arrestati, sciolse Soccorso Rosso come organizzazione formale, perché la ritenne troppo rischioso ormai per la gente comune che vi militava. Sì, la situazione cominciava veramente a farsi pesante, e quindi Franca pensò che l'organizzazione, che fino a quel momento aveva funzionato da scudo contro la violenza istituzionale, potesse in qualche modo poi ritorcersi contro questa cosa e contro chi ne faceva parte. Però fu importante il lavoro che fecero, soprattutto come fonte di controinformazione che venne data ad un pubblico sempre più vasto e a delle persone che avevano bisogno di risposte che non gli venivano date dal Parlamento e dal... sì, dallo Stato in generale, dal governo, che naturalmente dispensò a Soccorso Rosso e ai militanti e a tutto quello che vi ruotava attorno tutta una serie di indagini con l'accusa appunto di associazione sovversiva e sostegno al terrorismo. Però Franca Rame tutto questo lo pagherà veramente a caro prezzo. Infatti, a sfregio del suo essere donna di sinistra, nel 73, al culmine della sua attività in Soccorso Rosso, Franca Rame fu sequestrata da una banda di fascisti e subì violenza ripetutamente. Sì, probabilmente l'azione più brutta, più violenta che una donna può subire nel corso della sua esistenza, più brutta probabilmente anche della stessa morte. Nonostante tutto, Franca Rame riuscì a superare quello shock e a metabolizzarlo probabilmente con gli anni, e addirittura... E con coraggio riuscì addirittura sì, a gridarlo. A raccontarlo anche, diremmo, in un monologo che prende appunto il titolo secco, Lo stupro, del 1985. Un monologo dove ogni dubbio su quello che le era accaduto, sul come le era accaduto, venne dissipato. Raccontò Franca ciò che le era realmente accaduto in quel furgone e in quella circostanza. E, naturalmente però l'Italia è sempre l'Italia. Il procedimento penale iniziato da lei per lo stupro subito è giunto a sentenza definitiva soltanto dopo 25 anni. Naturalmente il reato era già caduto in prescrizione. Me and the gold now. Me and the spotlight. Losing my religion. Thought that I had you laughing. Don't that I you sing thing I saw you try na consider. It's me. Dopo 20 anni di palcoscenico sempre a fianco di Dario Fo, dopo l'esperienza di Soccorso Rosso e le sue vicissitudini personali, Franca debuttò nel 77 con Tutta casa, letto e chiesa. Ebbene sì, lo spettacolo fu la prima affermazione di Franca Rame come protagonista. Comprende ben 9 monologhi che Franca rappresenta in condizioni diverse. Di solito 4 per sera, non sempre decisi. Sì, non un sempre... po' come si sente ispirata. Sì, non sempre nella stessa combinazione, insomma. E, la cosa importante è che comunque naturalmente lei dà molta importanza alla mimica e alla gestualità in questi monologhi. E la storia viene più narrata che rappresentata. Sì, come se ciascuno dei personaggi che lei porta a scena raccontasse la sua storia a se stesso e non agli altri, sostanzialmente. E questa tecnica comunica realmente il punto di vista della protagonista, le sue reali sensazioni, le sue reazioni. Tanto che le donne che Franca interpreta in Tutta casa non sono femministe come il titolo informa, esse sono tutta chiesa e pareti domestiche, proprio come le donne tradizionalmente sottomesse. In più hanno anche imparato a essere obbedienti al letto. L'attrice qui si allontana completamente da argomentazioni teoriche e invece vuole dare veramente immagini concrete dell'oppressione femminile. Sì, immagini che fanno parte del quotidiano di tutte le donne, qualsiasi tipo di donne esse siano. Franca usa chiavi diverse a seconda della situazione tragica, ad esempio nei monologhi delle donne terroriste, addirittura grottesca, o conversioni da favola in altri monologhi. Sì, poi dimostrando di essere capace a toccare veramente qualsiasi tipo di sentimento e nonché di genere di rappresentazione. Assolutamente sì. E solitamente la rappresentazione iniziava con Il risveglio e Una donna sola, i due lavori che erano più farseschi, più suoi, diciamo. Eh sì, il primo è veramente molto divertente e narra la frenetica mezz'ora di una madre della classe lavoratrice tra il momento del risveglio mattutino e l'uscita di casa con il bambino piccolo. Sì, in Una donna sola Franca è una casalinga negligente, intenta alla stiratura. E invece in La mamma fricchettona è un'altra farsa apposta, per l'appunto, su una casalinga questa volta di sinistra che si maschera da mendicante per ricercare il figlio scappato di casa. Sì, ma il tema è sempre comune in queste tre farse ed è la scoperta che i beni di consumo assolutamente non mitigano il dolore dell'essere relegati a ruoli convenzionali, sostanzialmente. Ma naturalmente. Nelle favole invece prova ad affrontare il tema del doppio, portando in scena una bambola disinibita e allo stesso tempo attirata dagli uomini. Sì, Medea invece è un monologo che Franca usava spesso come conclusione dello spettacolo. Naturalmente. Il tono è diverso da quello delle favole, è più doloroso e si intuisce la sua partecipazione altrettanto dolorosa, sua partecipazione personale come donna. Naturalmente, poi fra l'altro negli spettacoli scritti da donne che sono anche madri, il culmine della tensione generalmente è raggiunto quando si affronta il tema dei bambini. Sì. In un'intervista Franca ricorda una serata particolare in cui durante la rappresentazione di Medea percepì un senso di gelo tra il pubblico. Naturalmente lei sempre attentissima alle reazioni del pubblico per poter capire i suoi spettacoli, per poter migliorarli e per poter capire perché non è riuscita ad arrivare al pubblico, si informa e tenta di capire qual era la motivazione di questa reazione. E venne a sapere che in quella città una donna si era gettata dalla finestra insieme ai due figli proprio pochi giorni prima che la compagnia vi giungesse. Sì, Medea è la donna ribelle che reagisce al tradimento ricorrendo anche all'infanticidio. La tematica che sta sotto a questi lavori è quella della maternità come atto di speranza, però tradito dal mondo. Cinquantamila lacrime non basteranno perché musica triste sei tu dentro di me. 50.000 Nel 1983 Franca decide di rappresentare un secondo spettacolo che include tre brani sulla relazione uomo-donna. Coppia aperta, quasi spalancata. Sì, questo è il titolo della rappresentazione. Ed è giustamente una farsa semiseria in cui marito e moglie discutono sui rapporti extraconiugali. Lui, un intellettuale di sinistra, obbligatoriamente franco riguardo alle sue relazioni. Lei, fatalmente umiliata dalle confidenze del marito. Lo spettacolo di Franca affronta così i problemi del sesso e le sue connessioni con un potere che diffonde violenza e repressione. Sì, richiamando tra l'altro l'attenzione di un pubblico di proporzioni senza precedenti sulle tematiche del teatro femminista, forse per la prima volta in assoluto. E che tra l'altro va annoverato come un notevole risultato. Sì, perché lo scopo di ogni teatro politico che è veramente, seriamente impegnato è proprio quello di raggiungere le persone, come dice Franca, i cui occhi hanno bisogno di essere aperti o che magari non sono ancora convinti di ciò che si cerca di dimostrare. L'inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più. Non la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Radio Onda Rossa, siamo sempre noi, Samantha e Federica. Ebbene sì. State sempre ascoltando Quando eravamo pelose. E potete telefonarci allo 06 49 17 50 oppure scriverci a mfl@ondarossa.info. Sì, vi parlavamo di Franca Rame e un po' di curiosità ci piacerebbe raccontarvi, alcune magari anche un po' scontate, qualcuna un po' più particolare. Come ad esempio quella che mentre stava facendo la tournée Galeotta, il dito nell'occhio, come vi abbiamo detto precedentemente, venne proposto a Franca un ruolo nel film Senso, il film di Luchino Visconti con Alida Valli. Sì, nessuno saprà mai perché alla fine Franca non si sia sottoposta a quel provino, insomma, un film importante. Oltretutto Visconti era anche un suo grandissimo amico. E fra l'altro il ruolo le fu offerto e riofferto, tanto che alla fine venne dato a Marcella Mariani. Sì, tra l'altro una bellezza abbastanza diversa da quella di Franca, visto che era bruna con gli occhi azzurri. Ma tutta questa riflessione la facciamo per un fine altro. Sì, perché in occasione della prima Marcella Mariani partì in aereo per Bruxelles. E naturalmente se Franca avesse interpretato quel film ci sarebbe dovuta salire lei su quell'aereo. Ma quell'aereo è precipitato e non si è salvato nessuno. Ebbene sì, Franca è una persona molto... Anche fortunata da un certo punto di vista. È una persona capace, fortunata per cose e fortunata per altre. Ebbene sì. E questa invece la sapremo un po' di più perché nel 2006 si candida capolista al Senato in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Umbria con l'Italia dei Valori e viene eletta senatrice in Piemonte. Eh sì, e addirittura il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, nel 2006 la propone come Presidente della Repubblica. Riceverà ben 24 voti. Beh, che comunque sinceramente non sono neanche tanto pochi vista la situazione dell'Italia da questo punto di vista. Ma coerente con le sue idee, sempre pronta a cambiare rotta se non ne condivide gli orizzonti, nel 2008 lascia il Senato. Sì, un'altra notizia un po' fuori dagli schemi del teatro, nel 2009 ha scritto assieme al marito Dario Fo la sua autobiografia, che cos'è? Intitolata Una vita all'improvvisa. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life, oh. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. Life, oh life, oh life, oh life. E comunque voglio dire una cosa, è proprio una vita all'improvvisa, non è un errore. L'autobiografia si chiama. L'autobiografificata. Sì, sì, infatti, una vita all'improvvisa. Comunque. Siamo giunte come sempre al grazie perché, anche se voi non ci avete detto i vostri, noi vi diciamo i nostri. Inizio io, sì sì sì. E volevo ringraziare Franca Rame perché con la sua ironia e la sua forza comunicativa è riuscita a dare un nuovo spazio a delle lotte, a delle emancipazioni e ha aiutato altre donne a seguire il suo percorso e ci ha fatto conoscere e superare stereotipi che negli anni della rivoluzione hanno aiutato a mutare la percezione e il ruolo della donna nella società. Sì, grazie a Franca Rame perché ci ha dimostrato che nella vita possono toglierci un po' tutto, ma mai davvero la nostra dignità. E anche che qualsiasi cosa accada è possibile riuscire a metabolizzare e a continuare ad urlare al mondo che non è giusto, affinché magari un giorno si riesca anche a non far più accadere delle cose. E grazie perché hai fatto del teatro la tua vita, della politica la tua lotta e della verità la tua religione. What an amazing time, what a family. How did the years go by? Now it's only me. Do you like it? Do you not like it? KYSR. Ai saluti. È stata una bella serata, è stato bello passarla con voi. e noi ci vediamo fra due martedì con Quando eravamo pelose. Sì, sempre nel martedì femminista e lesbico autogestito, che sempre invece vi aspetta martedì prossimo, esatto, dalle 5 alle 11, sempre più o meno dalle 10 alle 11, più o meno. E la prossima puntata ancora non la sappiamo. Però sicuramente vi racconteremo un'altra storia di una donna senza peli sulla lingua. Giuriamo che sarà senza peli sulla lingua. Un bacione e buonanotte. Grazie.